noc noc negra come una lavagna, e gedma una luz in sulla montagna, un non con la lanterna e il mangia de parlu, e in questa calda sas a mai mangia in de. L'ombria del capel, l'ombria della barba, l'ombria del mantel, e chi la cugno su l'ha mai vedu allegro, e il clou del sovvestì l'è sempre stal negro. E la ciame, ciame, nonu, nonu, haspis, nonu senza neu, nonu, nonu senza noni, aspi scrive mai il su. Noc, noc negra come una lavagna, un filetto se perdu in sulla montagna, e un nom con la lanterna, la ciapa per la man, che presta il suo mantel, che fa mangiare il suo pan. Il de dopo ne un via vai de carbinier, on trua il fier, che s'era perdu ier. L'on trua bel tranquil, setagion de na caverna, conti man il suo mantel, e conti man la sua lanterna. E la ciame, ciame, nonu, nonu, aspis, nonu senza neu, nonu, nonu senza noni, aspis, beve mai il su. E la ciame, ciame, nonu, nonu, aspis, ma la mai cagnani sen, fie, fie de Milan noc. De Milano. Hey! Aspis! Aspis! Aspis! Aspis! Aspis!